Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Si può fare nel nuovo orario, nel nuovo formato, il sabato, la domenica mattina, al buongiorno di Radio 24, oggi dalle 8.30 fino alle 11. Cominceremo dando un'occhiata alle prime pagine dei giornali, agli articoli più interessanti, ma cominciamo invece subito con una buona notizia. And now, the good news! Proviamo a voltare la testa e gli occhi dove qualche piccola buona notizia c'è. Questa volta riguarda la casta e i costi della politica. Sono piccole notizie ma ci danno una direzione di marcia. Comuni che si fondono, va avanti sotterraneamente questa iniziativa. Per esempio qua siamo a Parma, 9 comuni si fondono, Sissa e Tre Casali diventano il capofila, quindi risparmi per i cittadini. E poi a San Mango Piemonte, siamo in provincia di Salerno, sindaco e giunta rinunciano allo stipendio. La scelta del primo cittadino e dei suoi assessori vale per le casse comunali un risparmio di 11.000 euro l'anno. E non è poco, butta via. Oh, tanto per dire che insomma ogni tanto qualcosa di buono succede in qua e là, notizie buone per chi è coinvolto, piccole città, piccole realtà, ma insomma, invece guardando le prime pagine dei giornali di oggi, cosa troviamo? Troviamo per esempio indiscrezioni sul prossimo taglio del cuneo fiscale da parte del governo. Sulla prima pagina del Corriere, più tagli, bonus ai dipendenti, manovra fino a 15 miliardi, meno tasse sul lavoro. Entro la primavera 150 euro in busta paga, Saccomanni, siamo un paese normale, il ministro dell'economia dal G20. Poi vedremo se tutto questo andrà in porto, se ci sarà questa linfa sulle buste paga dei lavoratori, ma anche per quanto riguarda le imprese. Renzi boccia amnistia e indulto. Letta, sbagli, il colle è stato chiaro. Succede questo: Renzi inaugura a Bari la campagna elettorale in vista delle primarie per segretario del PD, subito entra nel dibattito politico no all'amnistia e all'indulto, ovvero alle scelte di Napolitano, scrive il Corriere. Spiega Renzi: affrontare oggi un tema come questo sarebbe un clamoroso autogol. Il premier Letta lo rintuzza: non sono d'accordo, nel messaggio del Colle non ci sono ambiguità. Poi c'è il commento di Maria Teresa Meli, dice il sindaco il Quirinale: qualche volta no, si può dire, c'è il virgolettato di Renzi, Napolitano ha il diritto di fare queste proposte, ma noi abbiamo il diritto di bocciarle. Allora, restiamo sulla prima pagina del Corriere per un commento di Giavazzi su Alitalia. Se Alitalia fosse un'azienda normale dovrebbe chiedere l'amministrazione straordinaria. Così accadde per Swissair, la compagnia di bandiera svizzera nel 2002, la belga Sabena nel 2001. Nel giro di poche settimane però le rotte abbandonate furono sostituite da altre compagnie. A Zurigo Lufthansa creò Swiss e a Bruxelles Virgin creò Brussels Air. E i vecchi azionisti andarono a casa. Non si racconti la storiella dei collegamenti con le isole, per quanto riguarda l'Italia, dice Giavazzi, perché ieri mattina tra le 6 e le 14 dall'aeroporto di Catania sono decollati per destinazioni italiane ed europee 20 voli. Questo il commento dalla prima pagina del Corriere della Sera sulla vicenda di Alitalia. Andiamo invece su Repubblica. Titolo principale: Letta, la Bossi Fini è da abolire, manderò i militari per salvare gli immigrati, Lampedusa ci sono oltre 200 dispersi. Il Premier e il Presidente del Parlamento Europeo Schulz, intervistati da Ezio Mauro alla Repubblica delle Idee, su questa vicenda, questa è la presa di posizione appunto di Letta, la Bossi Fini è da abolire. Poi c'è il titolo anche per quanto riguarda Erik Priebke: niente funerali in chiesa, Marino, il sindaco di Roma, non sarà sepolto nella capitale, il vicariato escluse cerimonie nella capitale, la comunità ebraica ringrazia il sindaco e Vaticano. Leggiamo: nessuno vuole il corpo del gerarca nazista Erik Priebke, il vicariato fa sapere che non sono previste esequie in nessuna chiesa di Roma, il prefetto e il questore della capitale vietano i funerali in forma pubblica e solenne, il sindaco Marino sta verificando la possibilità di non concedere la sepoltura a Roma per questioni di ordine pubblico. Roma è profondamente antifascista, sarebbe un'offesa alla città accoglierlo. Da Repubblica al Fatto Quotidiano, altro titolo su altra notizia: in 50.000 gridano salviamo la Costituzione, riferimento alla manifestazione di ieri a Piazza del Popolo. presenti diverse associazioni a difesa della Costituzione. Leggiamo brevemente il commento di Antonio Padellaro. Piazza del Popolo a Roma gremita come non si vedeva da tempo, l'adesione di centinaia di movimenti, la rete dei beni comuni, del volontariato, dell'accoglienza, la politica che si occupa delle persone, e poi le 440.000 firme raccolte dal Fatto e che verranno consegnate ai presidenti di Camera e Senato perché rammentino che la sovranità appartiene al popolo e non a un sinedrio di nominati. Il riferimento è alla Commissione dei Saggi che sta modificando la anche aspetti della Costituzione. Dice ancora Padellaro: chi sperava nel logoramento delle coscienze e nella rassegnazione karma agli arroganti, si segni la data di ieri, c'è un'altra politica pronta a scendere in campo. Sul Giornale invece il commento di Giuliano Ferrara sulle divisioni all'interno del PDL, le vicende del Cavaliere, la leadership appunto nel centrodestra, l'unico leader resta il CAV, lealisti e ministeriali. Scrive Ferrara: da un certo punto di vista il pasticcio è fatto, i ministri della destra si sono emancipati dalla sua leadership politica raccogliendo le adesioni di un numero di parlamentari pensosi delle sorti del paese, è sufficiente per togliere a Berlusconi il potere di vita o di morte sul governo. Da un altro punto di vista il pasticcio non è venuto bene, non è cotto a puntino, l'impresa a sfondo opportunistico che non è necessario bollare con la categoria moralistica di tradimento non ha sbocco politico, non può avere esito centrista che sarebbe penosamente minoritario. Tutte le chiacchiere sui moderati, sul modello Partito Popolare Europeo, sulla destra moderna hanno scarsa credibilità, dice Giuliano Ferrara a proposito dei dilemmi interni al centrodestra. Andiamo sulla prima pagina di Libero che dà un'altra notizia, sempre a proposito delle vicende interne al PDL. Dice: bomba da 100 milioni nella guerra del PDL, conti in tasca al partito. Questo è il titolo dell'approfondimento. Né Falchi né Colombe sarebbero in grado di andare avanti senza le fideiussioni firmate da Berlusconi, anche perché i parlamentari non versano le quote, così scrive il quotidiano di Belpietro a proposito appunto delle divisioni nel PDL e ricorda l'importanza di queste fideiussioni firmate da Berlusconi. Poi c'è un commento sempre di Belpietro sulla manifestazione che poco prima leggevamo dal Fatto Quotidiano, la manifestazione a difesa della Costituzione. Bella un corno, la Costituzione paralizza l'Italia. Perché? Dice Belpietro. Perché sostanzialmente non c'è costituzionalista o storico di destra o di sinistra, dice Belpietro, che oggi non lo riconosca. La Costituzione è nata su un compromesso. Il Partito Comunista e i socialisti avrebbero voluto una Costituzione socialista, ispirata se non all'Unione Sovietica di certi principi marxisti. I cattolici e i liberali invece guardavano ai paesi occidentali, alla Francia e agli Stati Uniti, e desideravano un ordinamento basato sui principi di libertà. Il risultato, scrive Belpietro, fu un ibrido un po' mostruoso, come ti piccono la Costituzione. Sulla prima pagina della Padania un'altra manifestazione, quella di ieri a Torino: non passa il clandestino, il Nord avvisa il governo. Grande successo della manifestazione di Torino. Maroni, il leader della Lega, dice: chiameranno noi governatori per chiederci di ospitare questi profughi, ma non sono profughi, dice Maroni, sono clandestini. C'è tempo ancora per un commento sulla Stampa a proposito del confronto Italia-Germania. Germania, il silenzio dei forti, il fondo di Rusconi. Germania non ha ancora un governo a 3 settimane dalle elezioni, ma i tedeschi non sembrano preoccuparsi. Il ritmo di chissà che a Berlino è comunque garantita la continuità politica. Invece in Italia, Italia frenetica e infelice, con un governo volenteroso ma sostanzialmente impotente per poter fare scelte incisive. Manca l'ingrediente principale per le larghe intese, una cultura politica solidale delle grandi cose da fare in nome dell'interesse comune. Ci fermiamo qua per quanto riguarda i giornali, in realtà restiamo in edicola perché facciamo l'approfondimento sul Domenicale e ci vediamo, ci risentiamo dopo il giornale radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, restiamo sui giornali di oggi perché c'è una cosa che non dovete assolutamente perdervi, lo sapete, è l'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, preparato, cucinato, impacchettato sapientemente come ogni settimana dal suo curatore Armando Massarenti. Buongiorno Armando, ben ritrovato. Buongiorno. Il direttore del settimanale, del domenicale, perché questo è un vero e proprio settimanale che non dovete assolutamente perdervi perché è l'unico tra gli inserti culturali che vi dice le cose che assolutamente dovete sapere, non potete perdervi, e non le cose che invece vi dicono già tutti gli altri. Oggi iniziamo così. Siamo sulle note della colonna sonora di The Artist, il film che parla del cinema muto. Armando, perché anche questa è una cosa di cui invece voi oggi parlate sul domenicale. Sì, The Artist in realtà è un cinema, è un film muto un po' sui generis, perché ricostruisce un linguaggio del muto in maniera molto interessante, ma che poco aveva a che fare con il cinema muto, di cui invece parliamo questa settimana, ma è bello anche capire i rapporti tra le due cose, perché proprio ieri si è chiuso il festival del cinema muto che si tiene ogni anno da 32 anni a Pordenone, e ce ne parla Luigi Paini. Ma gli argomenti di cui possiamo parlare sono poi moltissimi. Se ci spostiamo anche geograficamente di poco da Pordenone, arriviamo a Venezia, e di Venezia e soprattutto della laguna anche circostante ci parla un inedito o quasi inedito che noi pubblichiamo di Andrea Zanzotto, uno dei massimi poeti del Novecento, di cui sta per uscire un volume da Bompiani che appunto raccoglie i suoi scritti, sono quasi racconti, sono a metà tra il saggio e il racconto, che si intitola appunto Luoghi e paesaggi. Questo volume propone delle riflessioni assolutamente fondamentali di Andrea Zanzotto, poeta, ma che qui, a partire dal brano che noi abbiamo scelto, da una fotografia del grande Fulvio Reuter, ragiona appunto su che cos'è il paesaggio, ma non solo in senso, diciamo, esteriore, ma quanto per il poeta fosse come un'idea fissa, cioè il paesaggio italiano in generale era poi l'idea del come si forma il noi o l'io stesso degli individui attraverso appunto il paesaggio che lo circonda. Quindi sono considerazioni assolutamente in prosa, ma di una poeticità e di una capacità di analisi notevolissime, che ci riportano poi anche sotto alla una denuncia dello scempio che noi facciamo del paesaggio. Pensiamo a Venezia e ai barconi, alle enormi navi, certo, da crociera che sopravanzano anche proprio in statura le meraviglie di quella città. Ecco, quindi un omaggio al grande Andrea Zanzotto, morto soltanto 2 anni fa, è stato anche nostro collaboratore nell'ultima fase della sua vita, e quindi una grande riflessione di qualcosa che noi al Domenicale portiamo avanti da parecchio tempo, cioè la salvaguardia appunto del paesaggio, che non è soltanto qualcosa di materiale, ma qualcosa che ci riguarda e riguarda la nostra stessa identità di individui italiani. Ma poi vorrei passare, visto che ciò ha a che fare in realtà con la nostra anche formazione di cittadini consapevoli. Abbiamo visto 2 giorni fa le desolanti statistiche che ci vengono dall'OCSE, che ci vedono agli ultimissimi posti tra i paesi alfabetizzati, cioè l'alfabetismo funzionale. Purtroppo gli italiani lo soffrono nella maniera più forte di tutti gli altri, e quindi dobbiamo avere anche un atteggiamento un po' pedagogico, e un atteggiamento pedagogico ce l'ha un grandissimo artista, questa volta un artista visivo, William Kentridge, cui abbiamo dedicato le 2 pagine centrali. E diciamo, siamo partiti dall'ultima pagina a Zanzotto, 2 pagine centrali, poi tra poco arriveremo anche alla copertina e anche all'ospite di oggi, che è un ospite molto importante. Invece nel centro troviamo William Kentridge. Vi dice qualcosa questo nome? È forse uno dei più grandi artisti viventi, è sudafricano, ha prodotto una quantità di opere meravigliose, adottando tutte le tecniche pittoriche, anche quelle più tradizionali, dal carboncino fino alle ombre, ha usato quasi tutte le tecniche. Ma che cosa fa in queste 2 pagine? Ci spiega di come egli è entrato a far parte di un progetto che sta per iniziare, in cui lui diventerà il mentore di un altro artista, un giovane artista. E quindi anche qui troviamo una riflessione molto interessante, molto matura, di come possano essere trasmesse delle capacità questo caso, delle capacità artistiche nel molto filone della formazione anche, no? Tu citavi i dati Ox sulla scuola, certo. Adesso però parliamo di una cosa che riguarda la scuola. Tu stavi introducendo il nostro prossimo ospite, una cosa che a me incuriosisce molto, perché tutti ci portiamo dietro dalla scuola questo ricordo tra il liceo classico, questo confronto quasi leggendario tra la letteratura e le scienze, come se una dovesse sopravanzare l'altra. E oggi sul Domenicale, in edicolo oggi, voi Armando ospitate un punto di vista su questo molto originale, quello di Lucio Russo, che da filosofo a filosofo ti prego di introdurci. Sì, no, grazie per il filosofo. Io in realtà ho una formazione da filosofo della scienza, quindi mi trovo particolarmente a mio agio con anche i libri bellissimi che ha scritto Lucio Russo. Ricordo l'ultimo, L'America dimenticata, che è un libro in cui fa vedere che addirittura gli antichi avevano già degli scambi con le Americhe, in particolare con le piccole Antille. Ma non è questo l'argomento. L'argomento è, e spero che piaccia a Lucio Russo il titolo che noi abbiamo dato al suo articolo in copertina, illustrata tra l'altro con un teorema di Pitagora coloratissimo, bellissimo, che sembra quasi un Kandinsky, e il titolo è: questo teorema salverà il liceo classico. E sommario, al Torquato Tasso di Roma, gli studenti leggono e traducono dal greco gli elementi di Euclide. Così si attiva un ricco insieme di competenze e si scopre quanto di attuale ha da insegnarci la scienza antica. Cioè, il liceo classico, che sappiamo tutti quanto sia in crisi, è la nostra scuola più gloriosa, certo, ma che oggi vive un momento di crisi, forse possiamo salvarlo facendo cosa? Traducendo direttamente dal greco testi che in realtà sono testi scientifici, che una volta non venivano tradotti, ma era un peccato, perché questi testi scientifici possono dire moltissime cose anche su come insegnare non solo il greco, ma anche le scienze di oggi, in particolare la matematica. Allora, quindi lasciamo la parola a Lucio Russo. Ecco, buongiorno intanto, benvenuto. Ecco, se vuole anche, qual è questo teorema che potrà salvare il liceo classico, Russo? Ma Armando Mazzarente si riferiva al teorema di Pitagora, ma è un esempio naturalmente, insomma. E io citavo il teorema di Pitagora perché notavo come la dimostrazione del teorema di Pitagora è molto più rigorosa nel testo di Euclide che non nei manuali moderni, proprio perché i manuali moderni in genere danno per scontato il fatto che si possono costruire dei quadrati, mentre Euclide dimostra che questa è una conseguenza dei suoi postulati. E tra l'altro, ecco, quello mi sembrava interessante, che capire che l'esistenza del quadrato dipende da una scelta dei postulati, ecco, se si capisce questo ci si avvicina anche alle tematiche delle geometrie non euclidee più che non leggendo delle cose divulgative sull'argomento. Quindi Euclide può essere utile anche per avvicinarsi alle geometrie non euclidee, secondo me. Armando, se vuoi fare anche ecco, una tra l'altro questo Russo, ci rimanda sì. Ad una traduzione a cui siamo abituati, che invece Lucio Russo dimostra essere fallace. Si finiscono le dimostrazioni con un come voleva si dimostrare, no? Invece una lettura più attenta del greco, che cosa ci rivela Lucio Russo? No, non è proprio come hai capito in realtà, cioè ci sono una metà delle dimostrazioni di Euclide si concludono con una formula che è ben tradotta come voleva si dimostrare, sì. Però l'altra metà si conclude con un'altra formula, come doveva si fare o come voleva si fare. Esatto. Quindi esistono proposizioni costruttive e proposizioni in cui si dimostrano sono verità su figure di cui già si sa la costruzione, e in genere tutte le proposizioni costruttive si sono perdute nella tradizione didattica moderna, con danni gravissimi, secondo me. Io ringrazio Lucio Russo e ringrazio Armando Massarenti. Tutto questo lo trovate nero su bianco, su carta stampata, sul Domenicale, oggi in edicola. Ogni domenica noi vi invitiamo a scoprire insieme a noi il mondo del Domenicale. Grazie ancora Armando, noi ci troviamo domenica prossima. Salutiamo ancora Lucio Russo e invece con Si può fare ci sentiamo subito dopo il giornale radio. Buongiorno, sono Emiliana da Firenze e vorrei lanciare un messaggio a tutti gli italiani che per primi dobbiamo essere noi a tenere pulita questa nostra Italia. Un domani che noi ci comportiamo tutti i cittadini bene, non essendo più sporchi, sporchi proprio di immondizia che viene gettata per le strade, una volta che impariamo a riciclare al 90%, perché dobbiamo cambiare noi, non solo quelli che ci governano. Se altri paesi avessero quello che abbiamo noi si sarebbero fatti d'oro. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci di nuovo qua insieme, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Buongiorno, si può fare nell'orario nuovo, nel formato nuovo, la domenica dalle 8.30 sino alle 11, un'occhiata alle prime pagine dei giornali, approfondimenti, telefonate in diretta all'800 24 00 24 e poi vi annuncio già da adesso che si può partecipare al concorso, cari ascoltatori, si vincono tre persone, due biglietti, quindi sei biglietti in totale per la mostra Brain che inaugura tra qualche giorno a Milano al Museo di Scienze Naturali, la mostra sul cervello Brain, partecipando al concorso all'800 24 00 24 ci dovete dare la definizione più bella, più giusta, più calzante, a giudizio però insindacabile nostro della redazione, di creatività. Oggi la domanda è: cos'è la creatività? 800 24 00 24. Vi ricordo anche i nostri contatti, se volete interagire in tempo reale con noi su Facebook si può fare trattino Radio 24, su Twitter invece il nostro account è chiocciola si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. Adesso facciamo il traffico, torniamo tra un attimo. Strade in diretta. Buongiorno, sulla 3 Salerno-Reggio Calabria rallentamenti dopo un incidente tra Campotenese e Morano-Castrovillari in direzione di Reggio Calabria. Per lavori urgenti di pavimentazione si rallenta sull'autosole tra Pian del Voglio e Roncobilaccio in direzione di Firenze. Resta chiusa nel Veneto la 13 Bologna-Padova in direzione di Padova tra Padova Industriale e il bivio per la 4 a causa di un furgone che ha preso fuoco. Infine, per un incidente sul tratto milanese della 4 si procede a senso unico alternato allo svincolo di Cormano sia in entrata che in uscita nelle due direzioni. È tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, dunque, riprendiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi. Vediamo subito dal Corriere della Sera. Il primo titolo è: più tagli, bonus ai dipendenti, manovra fino a 15 miliardi, meno tasse sul lavoro entro la primavera, 150 euro in busta paga. Leggiamo: più tagli, bonus ai dipendenti, uno sgravio fiscale in busta paga entro la primavera, meno tasse sul lavoro dalla manovra del governo, ma calano le risorse per gli enti locali. Queste sono le indiscrezioni che si sanno al momento su quello che saranno le prossime manovre economiche del governo, dopo che ieri il ministro Saccomanni dal G20 ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra cui anche: siamo qui per dimostrare che siamo un paese normale, se lo dice lui sarà vero. Andiamo sempre dalla prima pagina del Corriere, c'è la vignetta di Giannelli che è su Matteo Renzi ed è questa: il PD è unito, il titolo, poi ci sono tre Matteo Renzi che si danno la mano tra di loro e sotto c'è scritto sindaco, segretario e premier, cioè allude un po' al gioco delle parti che Renzi sta facendo tra sindaco, futuro segretario e candidato premier in pectore. Poi se la vedrà con Letta. La notizia di spalla è questa: Renzi boccia amnistia e indulto, anche se Letta gli replica sbagli, il colle è stato chiaro. Il retroscena di Maria Teresa Meli, il sindaco, il Quirinale, qualche no si può dire. Quando il ministro Dario Franceschini chiama Renzi per capire da parte di Enrico Letta che cosa abbia detto sull'amnistia e l'indulto ieri a Bari Renzi, lui non fa marcia indietro, virgolettato: Napolitano ha il diritto di fare queste proposte, noi di bocciarle. Perché la tesi di Renzi è che affrontare oggi un tema come quello dell'amnistia e dell'indulto sarebbe un clamoroso autogol. Quindi insomma il dissenso di Renzi su questa vicenda qua, una cosa che può portare qualcosa in termini elettorali a Renzi in vista di future prossime, non si sa quanto vicine elezioni, ma forse anche un dissenso politico, perché non è che devono essere per forza tutti d'accordo su quello che ha detto Napolitano. Cioè, sicuramente c'è il tema del sovraffollamento carcerario, però che si debba risolvere ogni volta a colpi di amnistia e di indulto, questo è tutt'altro che legge, è tutt'altro che, insomma, una questione su cui non si possa discutere. Noi stessi ieri qua Si Può Fare abbiamo fatto un piccolo approfondimento dall'esperienza di Brescia, dimostrando come le pene riparative, i riti alternativi sono, oltre che uno svuota carcere, anche una garanzia di una recidiva minore per il carcere. Quindi intervenire solo con amnistia e indulto può essere un po' limitante e fuorviante. Vogliamo leggere invece dalla prima pagina del Manifesto un piccolo approfondimento su Beppe Grillo, fotocopia di Marine Le Pen, così scrive Alessandro Dallago. Sul tema dei migranti, la sconfessione dei senatori del Movimento 5 Stelle da parte della ditta Grillo e Casaleggio non ha nulla di sorprendente. Invece quello che lascia di stucco è l'ingenuità di quelli che pensano che Grillo sia un vendicatore di torti e un difensore dei diritti dei deboli, compresi i poveri migranti. I seguaci che oggi si indignano con il capo ignorano l'assoluta coerenza di Grillo sulla questione. Perché, riepiloga Alessandro Dallago sul Manifesto, nel 2007 Grillo parlava dei sacri confini della patria violati dai Rom. In seguito si è espresso contro la cittadinanza ai figli dei migranti nati in Italia. Poi, tempo fa, ha detto che i veri extracomunitari siamo noi. Insomma, sembra la Lega, questo lo dico io. Oggi, ecco la presa di posizione sulla clandestinità. La spiegazione di questo indurimento progressivo ma lineare si chiama Marine Le Pen. Questo è il commento di Dallago sul Manifesto di oggi, che, insomma, sottolinea come ci sia un coerente, continuo, lento spostamento di Grillo su un asse più di destra, forse, o su un asse antieuropeo, su un asse di, secondo questo commento, diciamo, di demagogia che può piacere alla destra, ma che, insomma, piace anche a Grillo e ai suoi elettori, quello poi di dire sempre un po' quello che la gente si vuol sentir dire. Gemelli di argomentazioni, dunque, Grillo e la Lega in questa fase. Dalla prima pagina della Padania, allora leggiamo: non passa il clandestino, il Nord avvisa il governo. Ieri c'è stata una manifestazione a Torino, la foto in prima pagina mostra da sinistra a destra Bossi, Calderoli, a meno che non sia un fotomontaggio, no, non credo, tutti insieme così era un po' che non si vedevano, Cota, Maroni, Borghezio e Speroni, stop all'immigrazione clandestina. Leggiamo l'inizio, l'occhiello di questo titolo sulla Padania: grande successo alla manifestazione di Torino. Maroni: chiameranno noi governatori per chiederci di ospitare questi profughi, ma non sono profughi, sono clandestini. Questa è l'opinione di Maroni, ex ministro dell'interno, tra l'altro. Ora, io non ho sentito le sue dichiarazioni in voce, devo dire, ma dire che gli eritrei e i somali non sono profughi ma sono clandestini, al momento è una tautologia, è chiaro, perché finché non hanno avuto il diritto d'asilo, però sono domandanti asilo politico, sappiamo che vengono da zone di guerra, da zone dove si spara e si muore, e quindi sono tendenzialmente, caro Maroni, più profughi che clandestini. Questo bisogna anche un po' dirselo, altrimenti si gioca con le parole. Da una manifestazione all'altra, torniamo sul Fatto Quotidiano, che ci ricorda che ieri c'è stata la manifestazione a Roma, in Piazza del Popolo, in difesa della Costituzione. Titolo: in 50.000 gridano salviamo la Costituzione. Piazza del Popolo a Roma gremita, scrive il Fatto Quotidiano, presenti associazioni, movimenti, gli operai della FIOM, Rodotà al Premier, no al grande imbroglio. Riferimento appunto ai saggi, al comitato dei saggi e alle proposte di modifica della seconda parte della Costituzione. Fischi per il Colle, ma dal palco si invita alla moderazione. Prossima tappa, la consegna delle 440.000 firme del Fatto ai presidenti delle Camere. E il commento di Antonio Padellaro è questo. Leggiamo. No, sì, leggiamo. Chi sperava nel logoramento delle coscienze e nella rassegnazione che arma gli arroganti, si segni la data di ieri. C'è un'altra politica pronta a scendere in campo. Non sarà un partito, come qualcuno va sperando, ma molto di più. Il partito a cui fa riferimento Padellare è quello che ogni tanto viene fuori: Rodotà, Landini, Zagrebeschi, che poi sono gli animatori di questa manifestazione, insomma. E ogni tanto si parla della possibilità che venga fondato anche un partito in quest'area, che poi era l'area di Rivoluzione Civile di Ingroia, che ha avuto un'esperienza pessima dal punto di vista elettorale, quindi non è chiaro se, se davvero ci sarà un partito in quest'area qua, perché appunto le esperienze precedenti sono negative, però continua Padellaro, non sarà un partito, non sarà guidata da leader carismatici e neppure da miliardari pregiudicati, avrà l'attuazione della Costituzione come programma, è una frase di Sandro Pertini come viatico. Sandro Pertini, per i più giovani, è l'ex Presidente della Repubblica, perché magari non tutti se lo ricordano. Dietro ogni articolo ci sono centinaia di giovani morti della Resistenza, è una conquista nostra e dobbiamo difenderla costi quel che costi. Questa era la frase di Pertini, e dice, conclude Padellaro, noi saremo lì. Oh, invece, dalla prima pagina di Libero, un commento diverso su questa manifestazione che abbiamo parte letto anche nella prima parte di questa rassegna, è quello di Maurizio Belpietro. Bella un corno, la Costituzione paralizza l'Italia, dice Belpietro. Chissà se i manifestanti che ieri hanno sfilato per le vie di Roma in difesa della Costituzione, la Costituzione l'hanno mai letta davvero, o se la loro era una allegra scampagnata in nome di un dogma, ossia che la Costituzione è sacra e non si tocca. Queste persone, scrive Belpietro, oggi non direbbero che la carta su cui si regge la nostra Repubblica è la più bella del mondo se l'avessero letta, perché capirebbero che essa è il frutto di un compromesso in cui affonda le radici il consociativismo che sta mandando in malora l'Italia. Il consociativismo a cui fa riferimento Belpietro è originato dal fatto che la Costituzione nasce da un compromesso tra le radici più socialiste e quelle più liberali, cioè tra il Partito Comunista, in parte quello socialista, e la Democrazia Cristiana dell'epoca, che difendevano tradizioni politiche opposte. Quindi, dice Belpietro, questa Costituzione in realtà è il risultato, è stato un ibrido un po' mostruoso. Libero però ci dà anche una notizia che è interessante. C'è una bomba che riguarda il PDL, il centrodestra. C'è una bomba da oltre 100 milioni di euro al centro della partita tra falchi e colombe azzurre. Una cifra enorme che oggi unisce i destini non proprio fausti di PDL e Forza Italia, e a cui fino ad oggi ha fatto fronte esclusivamente il salvadanaio di Silvio Berlusconi. La bomba sono i 100 milioni di euro di fideiussioni firmate proprio da Berlusconi. Vediamo se possiamo leggere qualche dettaglio su questo. A fine 2012 il partito con la bandiera tricolore aveva un disavanzo patrimoniale cumulato di 67,9 milioni di euro e alla stessa data aveva una situazione debitoria complessiva di 88,2 milioni di euro, in gran parte dovuta all'esposizione con il sistema bancario. Insomma, c'è questo articolo di Bekis che spiega come nel PDL le acque siano agitate anche per via di questi 100 milioni di euro che mancano. Se Berlusconi taglia la corda o se c'è una frattura vera tra lealisti e, diciamo, scissionisti, anche perché i parlamentari, dice il Libero, non versano le quote, cioè i soldi ce li ha messi tutti Berlusconi fino ad ora per tenere in piedi il partito. Quindi dove vanno gli scissionisti del PDL? Questa è la domanda, che potrebbe essere una domanda anche da rivolgere a voi ascoltatori all'800 24 0024, e tra poco apriremo anche i microfoni su questo. Restiamo sui giornali del centro, di area di centrodestra. L'unico leader resta il Cavaliere, scrive Giuliano Ferrara, lealisti e ministeriali. Il commento di Ferrara sostanzialmente porta a questo: tutte le chiacchiere sui moderati, sul modello del Partito Popolare Europeo, sulla destra moderna, hanno scarsa credibilità perché sono solo chiacchiere di sinistra, desideri e invocazioni che vengono dalla classe discutidora, scrive Ferrara con questo neologismo, patemi d'animo degli anti-berlusconiani. Va bene, poi dice Berlusconi, la cui leadership nel bene o nel male è stata per 20 anni personale, un uomo privato e la sua famiglia amicale, con tutti i difetti che questa soluzione ha comportato, è stato però al servizio di una prassi politica e critica della politica che scuote le istituzioni e le vecchie certezze istituzionali, però, dice Ferrara, senza riuscire a fare una vera e propria rivoluzione liberale. Non so se abbiamo ancora un minuto, forse sì, prima della pausa. Leggiamo anche la notizia che riguarda Erich Priebke, perché per lui, per il centenne scomparso qualche giorno fa ex capitano delle SS responsabile del massacro delle forze ardeatine, non ci sono funerali in chiesa. Il sindaco di Roma Marino dice non sarà sepolto a Roma. Leggiamo: nessuno vuole il corpo del gerarca nazista Erich Priebke. Il vicariato fa sapere che non sono previste esequie in nessuna chiesa di Roma. Addirittura il prefetto e il questore della capitale vietano i funerali in forma pubblica e solenne. Il sindaco Marino sta verificando la possibilità di non concedere la sepoltura nel territorio della città per ragioni di ordine pubblico, perché Roma, dice Marino, è profondamente antifascista, sarebbe una offesa alla città accoglierlo, ma non lo vuole neppure l'Argentina. Insomma, è incredibile questa vicenda del corpo di Priebke, che non lo vuole più nessuno. Cioè, quando era vivo sembrava che avesse anche qualche, forse, seguace, qualche sostenitore. Adesso che è morto, non lo vuole Roma, non lo vuole la Chiesa, non lo vuole l'Argentina, chissà dove lo seppelliranno. 800 24 00 24, questo per dire che forse di fronte almeno al corpo, no, e alle estrema decisione, la conclusione di una vita, non so, forse le polemiche si possono sospendere. Evidentemente no, forse è giusto che sia così. Si può fare cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua, 800 24 00 24, di nuovo in diretta con Si può fare, insieme ad Alessio Maurizi e a Carlo Gabardini. Buongiorno Carlo. A tutti. In un orario assurdamente assurdo. Prestanzuolo. Certi standard, sì, diciamo, artistici, attore, no, autore. Quest'estate insieme a noi Si può fare, adesso di nuovo come, non so, continuiamo così, come stagista, giornalista, opinionista. Ecco. Molto. Adesso ci fai sentire anche un po' di farina nel tuo sacco. Però, no, non è farina nel mio sacco, no. Assolutamente. Ho semplicemente delle notizie, giusto? Diciamo che tu sei stato quello che ha messo il mangime, poi sono venute le galline a beccare. Le galline sono le notizie che ci farai sentire tra poco. Però c'è un'altra notizia che dobbiamo darla, mi dicono, non è uscita neanche ancora in agenzia. Vettel ha vinto, eccolo qua, il Gran Premio, e adesso sì, è anche campione del mondo. Appena adesso. Sì. Siamo stati i primi, credo, a dirla. Prima ancora di Vettel. Prima ancora di lui. C'è ancora, diciamo, la bandiera a scacchi sulla faccia in questo momento. Io non ho seguito molto quest'anno il campionato di Formula 1, insomma, per cui ero proprio a digiuno di tutto. Ero un po' incredulo. Io ero sempre qua in radio, ovviamente. Ma è la prima volta che vince Vettel? No. No. Ha vinto tante altre volte, moltissime altre volte, da che si vede che il mio interesse per questa cosa è pari a zero. Vabbè, non faccio lo stage per il giornalismo sportivo, ecco, diciamo, lo faccio l'anno prossimo. Perché quello saresti bocciato anche tu. Esatto, dove si viene la domenica pomeriggio, invece quello, diciamo, da giornalista si viene la mattina all'alba. Perché io sono in realtà arrivato comunque alle 8 qui in radio, ci tengo a precisarlo, soprattutto per mia mamma che pensa che io dormo, e invece adesso è felicissima che faccio questa cosa a Radio 24, così mi sveglio. Hai guardato le agenzie anche tu, le notizie, le cose, così ti sei preparato. Adesso però io non vedo ancora telefonate degli ascoltatori, tra poco li sentiremo. 800 24 00 24, abbiamo fatto un po' di rassegna stampa, ci sono molti argomenti su cui intervenire, e poi c'è il concorso per vincere i biglietti Brain, per la mostra Brain. Riepilogo di cosa si tratta, è questo: Brain, istruzioni per il cervello, istruzioni per l'uso, mostra che si svolge a Milano dal 18 ottobre al 13 aprile 2004 al Museo di Storia Naturale, un percorso multimediale interattivo tra neuroscienze e medicina. Voi oggi ci dovete rispondere a questa domanda qua, la definizione più giusta, più bella, più calzante a giudizio nostro di creatività. Quindi chiamateci per intervenire sugli argomenti del programma, ma anche per darci questa risposta. Le tre più belle vincono ognuno due biglietti per la mostra. Magnifico, io do il mio IBAN a questo punto, perché io sono assolutamente corruttibile, vorrei dire, e quindi invece del mio Twitter do il mio IBAN oggi, se volete. Però cifre comprese tra zero e il prezzo del biglietto, che non so qual è, quindi diciamo, piccole cifre, però, ma è così che ci si arricchisce, con piccolissime cifre, ma tante. Anche perché lo stagista opinionista non è pagato, non è retribuito. Assolutamente, in ovvio. Stagista, questa è la condizione dello stage. I primi 30 anni sono così, poi dopo diventa più difficile. Poi dopo c'è la caccia alla pensione. Esatto. Allora, vediamo un po' cosa... Notizie. Io ho una bellissima notizia di Vailate, in provincia di Cremona, dove c'è un ragazzo che, continuando... c'è un problema col microfono. Il problema con il microfono, che è chiaramente del boicottaggio nei miei confronti. Lo stagista che mi cambiano microfono in questo istante e io quindi anche queste difficoltà. I problemi tecnici sono il peggio, perché io veramente non capisco più niente. A Vailate, quindi in provincia di Cremona, un ragazzo che vive in una villetta schiera continua a guardare nella villetta schiera di fronte, dove c'è una famiglia che ha un sacco di vestiti firmati bellissimi, uno più bello dell'altro, proprio i suoi jeans preferiti, le sue mutande preferite, e lui li continua a vedere stesi di fronte. A un certo punto salta al di là della siepe e ruba i vestiti ai vicini. I vicini vanno dai carabinieri, lui è tutto contento che ha questi vestiti, ovviamente li usa perché li ama moltissimo, ci va in discoteca, e a un certo punto cosa succede? I vestiti si sporcano e quindi lui li lava a sua volta, e che cosa fa quando li ha lavati? Li stende, e i vicini vedono i vestiti e dicono: ma scusami, ma com'è che il nostro vicino c'ha esattamente tutti i nostri vestiti? Chiamano i carabinieri e i vestiti vengono restituiti. Cioè, un genio. È un genio. Io proporrei del jeans sharing, così uno li usa il martedì e uno li usa la domenica. Questa non è male, questa non è in linea, tra l'altro, con le buone pratiche che noi si può fare, amiamo molto. Assolutamente. Il bike sharing, car sharing e il jeans sharing. Esattamente. Certo, sta bisogna solamente male. Andare a vivere tutti quelli con la 44, poi tutti quelli della 46, poi tutti quelli della 40. Esatto. I numeri di, diciamo, non saranno più i numeri civici, ma saranno le taglie. Poi una notizia che piacerà sicuramente ad Alessio: se adotti un randagio non paghi la TARES. Questa no, giusto? Il comune di Solarino a Siracusa ha deciso che se tu adotti un randagio poi non paghi la TARES. Capito, questo però costa molto più il randagio della TARES. Perfetto. Cioè, nel senso, che incentivo è? L'incentivo è questo, è che tu però intanto tutti guadagni un buona. Simpatico animaletto che fa compagnia ai tuoi bimbi, è questo. E la notizia, siccome esattamente il loro problema è questo, cioè il comune di Solarino ha capito che ogni camera randagio gli costa più o meno 1500 euro, quindi se tu te lo adotti loro diciamo ti scontano la TARES fino a 750, quindi è ci guadagna il comune alla fine, ci risparmia il comune un po' ballerino. Vabbè, però voglio vedere però come si chiama il paese. A Solarino, Siracusa, voglio vedere però se ci sarà almeno un cittadino che aderirà a questo incentivo. Uno c'è stato per adesso, solamente uno, però l'iniziativa è stata adottata anche a Pachino lì vicino, però lì forse bisogna adottare un pomodoro. C'è da dire una cosa, caro Gabardini, tu fai lo spiritoso, ma in Sicilia la questione dei cani randaggi è veramente un casino, perché ogni anno succede veramente l'inverosimile, cioè gente sbranata dai cani randaggi. Non so se ogni anno, ma succede spesso questa notizia, l'avrei letta qualche volta. Certo, quindi in io l'incentivo è doppio, è fiscale, ma è anche su questa, non so se. Ma se adotti uno sbranato, secondo me ti devono scontare anche l'IRPEF a questo punto. Cioè uno anche il mutuo. Uno a cui è stato sbranato un braccio, per esempio. Direttamente anche il mutuo. Altre notizia da Londra: boom di sesso con gli elettrodomestici. Troppi incidenti, smettetela. Lo sono gli stessi pompieri. Lo sapevo che di Londra che hanno fatto un appello dicendo: non fate sesso con gli elettrodomestici. Come esempio hanno usato, loro la chiamano la storia dell'uomo che amava il tostapane, ovvero che è stato preso diciamo con il proprio membro dentro il tostapane, e io direi che noi possiamo chiamarla l'uomo e il tostapene. No, ho capito. Io sapevo che tu non aspettavi altro di fare questo stage da stagista opinionista a Radio 24 per poter dare notizie assurde. Assolutamente. No, ma la fonte, ma è vera, però è vera questa notizia. La fonte me la sono stampata. Affari italiani. Affari italiani. Quindi non esattamente non tutto il fango minuto per minuto. No, non dirlo come se fosse il Ministero dell'Interno. No, d'accordo. È un sito, però abbastanza autorevole. Quindi deve essere vera sta notizia. Dopodiché andiamo a Ferrara, dove un signore ingerisce 29 ovuli di cocaina ma non riesce ad evacuarli. È un 51enne che a questo punto è stato operato e arrestato. Li aveva ingeriti in Spagna per importare illegalmente la cocaina in Italia, ma non è riuscito ad evacuarli. Vorrei chiudere dicendo: lo spaccio non si addice agli stitici. Assolutamente, questa è una questione importante, secondo me dovremmo parlarne anche a essere benessere. Esattamente. Adesso Cuore e Denari, il programma nuovo di Radio. Arrivo alla mia ultima notizia, che non voglio rubare del tempo, e che si lega alla giornata di oggi, che è la giornata del del camminare. Abbiamo il sindaco, allora ti sei preparato per bene, certo, di Vado, che ha deciso che nel proprio palazzo comunale costringerà i politici e gli impiegati a fare le scale, ovvero per 24 ore non funzionerà l'ascensore. Combattiamo così la pigrizia e facciamo del bene al nostro corpo. La cosa che mi ha fatto molto ridere è che è il sindaco di un comune che si chiama Vado, che io direi che per almeno per un giorno lo chiameremo Vado a piedi. Vado oppure a piedi. Salgo. Questa è bellissima. Ieri io l'avevo accennata quando abbiamo intervistato il Piacentini della giornata del camminare e ho anche detto: ma perché non lo facciamo da tutte le parti un giorno alla settimana sempre, poi istituzionale? Cioè potrebbero partire da Vado e farlo anche qua, salgo anche al Sole 24 Ore, via Monterosa Morta, certo, un giorno alla settimana. Qua ci sono solo quattro piani, quindi è l'unico dubbio è quello, piedi, è capire se mercoledì si va a piedi, è che forse contro la pigrizia. Il palazzo del comune di Vado non è, forse non ha lo stesso numero di piani del palazzo della regione a Milano, per esempio. Solo il piano terra, ecco. No, non volevo, però insomma è più facile con, certo, comuni più piccoli. Ma penso che al comune di Milano potremmo tranquillamente andare a piedi, perché il comune sicuramente non è molto alto. Già poi il palazzo della regione, sono 150, essendo il Pirellone. 800 24 00 24, questa era la notizia di Gabardini. Abbiamo un po' di ascoltatori, abbiamo sicuramente gli ascoltatori, però abbiamo anche i nostri amici del Guinness dei primati, del record di traversata sui mezzi pubblici, anzi sul tram ATM. Cristian Busato, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, spieghiamo di cosa si tratta. Dunque, intanto, io non so neanche com'è andata. Siete riusciti a realizzare il Guinness, il nuovo record nel Guinness dei primati? Poi diciamo anche di cosa? Siamo riusciti e con 5 minuti di anticipo. Vabbè, questo, ecco. Spieghiamo. Diciamo che cosa succede. Voi avete realizzato il nuovo record da Guinness, poi ci spiegherete anche come si fa a contattare questa organizzazione se uno vuole battere un record, certo, di traversata con mezzo pubblico, anzi su linea tranviaria più lunga al mondo? Sì, più che di traversata parlerei di percorrenza. Abbiamo percorso tutta la rete ATM tranviaria da capolinea a capolinea. Ma 150 chilometri è quasi una traversata però. 150 chilometri più una ventina di trasferimenti con altri mezzi, più quasi 10 chilometri di trasferimenti a piedi. Insomma, ne fanno una bella impresa, nata da un'idea vista negli Stati Uniti, in cui una persona ha realizzato analogo record ma in metropolitana, quindi molto più facile. Adesso già mettersi che quegli altri è più facile. Perché è più facile in metropolitana? Perché è più facile? È al coperto. Senza interferenze con il traffico. Devo dire che solo attraversare le colonne di San Lorenzo a mezzanotte è stata un'impresa, insomma, di quanta gente c'era. Perché c'era gente che beveva, era sabato sera, in mano e entrava, certo, il tram. Quindi lì avete avete rischiato. Sui binari. Ma in che senso? Ma non ho capito come funzionavano i trasferimenti da una linea all'altra. Cioè, da una linea all'altra voi a piedi andavate all'altra linea o coi mezzi pubblici? O a piedi o coi mezzi pubblici, a secondo di quello che era più facile, più veloce. E cosa avete utilizzato? Anche il bike sharing? Abbiamo utilizzato anche il bike sharing perché comunque voleva essere una promozione anche di ATM. Ecco, ma quanto vi ha pagato l'ATM in tutto questo? Cioè avete avuto un... Nulla, ci ha solo dato tantissima assistenza. Sì? Tantissima assistenza dalla sala di controllo, tantissima assistenza da parte di quelli che erano il personale viaggiante che hanno supportato l'evento tramite la vidimazione del nostro avvenuto passaggio. E il biglietto, un giornaliero gratuito, forse l'avete vinto, speriamo noi. Almeno uno. Io spero che vi diano l'abbonamento a vita a questo punto. Speriamo, ma più per la soddisfazione che non per il valore, insomma, del premio. A parte che mi sembra molto bello che una squadra che fa 150 km sul tram facendo tutte le linee di Milano, però dice la cosa più difficile è stata attraversare le colonne di San Lorenzo in mezzo a quelli che facevano l'aperitivo. Giusto? Assolutamente. Che è il simbolo di Milano, quindi torna tutto. Però io vorrei sapere una cosa, c'era con voi quello del Guinness, come si chiama l'associazione, insomma... un notaio c'era? L'associazione si chiama Guinness World Record, ecco. Ci ha dato due possibilità, o quella di certificarlo tramite personale, sì, terzo, quindi tramite personale di ATM, oppure venire direttamente un giudice, la certificazione insomma del record è la medesima, quindi abbiamo scelto la prima strada, quindi di avvalerci di quello che è il personale ATM, tutto certificato ovviamente c'è un tabellone in cui è indicato il numero di matricola del mezzo, la tabella oraria, cioè si può ripercorrere il vostro tragitto, la traiettoria, quello che avete fatto, si può ripercorrere e verificare. Poi io non ho capito un'altra cosa, la vostra bravura, perché uno fa un record di salto in alto, di salto in luce, salto con la bicicletta 10 bidoni dell'immondizia, qual è la vostra bravura aver fatto questa cosa qua? Sicuramente una pre-record di pianificazione, perché comunque ci sono due o tre possibilità per compiere l'intero percorso. Sicuramente la prima possibilità era quella di iniziare con la prima tranvia che partiva alle 4:40, quindi già da un punto di vista pianificatorio pre-record. E poi insomma 150 km di tram più altri 20 trasferimenti, con tutte le incognite del caso, addirittura abbiamo dovuto ridefinire la cronotabella un giorno prima per un... Insomma, quasi un record. La cronotabella è stupenda, una cosa da ingegneri gestionali questo record. Ma eravate tutti e tre sempre insieme o vi siete divisi? Non solo tre sempre insieme dalla partenza all'arrivo, ma si sono aggiunti, leggendo il record, altre quattro persone che hanno fatto tutto il record assieme da capolinea a capolinea, sono più di 20 ore, e poi tantissima gente, tantissimi milanesi che ci ha sopportato. Bello. Sopportato o supportato? Che vi hanno supportato. Che cosa ti resta, Cristian, alla fine di questa, cioè tutte queste ore, tra l'altro di notte, bello, anche affascinante, no? In tram a Milano, cioè che città avete avuto il tempo di guardare dai finestrini per vedere intorno che aria tira, com'è Milano di notte? Assolutamente, dall'alba dell'Arco della Pace alla movida delle colonne di San Lorenzo, passando insomma per quelli che sono i luoghi simbolo come Castello e Duomo, abbiamo avuto ben tempo, anzi un appello, utilizzate il tram che è veloce se non ci sono mezzi privati, meno mezzi privati ci sono, più la velocità aumenta, quindi è una soddisfazione. Ma c'era gente di notte sul tram? C'era o c'eravate solo voi? C'era gente più di quello che era di giorno, soprattutto utilizzando il 3, è stato veramente un... Bisogna riuscire ad avere più mezzi pubblici di notte, però, visto che adesso avete il record insieme alla TM, tipo di avere la metropolitana che funzioni tutta la notte, queste cose qui, diciamo che Milano chiede da 20 anni. Che succedono a San Francisco, ma cosa c'entra? No, Milano, no, vabbè. Non è così, cioè, Milano è una piccola città. No, sto scherzando. Sarebbe bellissimo. Grazie, Cristian Busato. Ricordiamo però i nomi anche degli altri due, li vogliamo dire? Li dici tu? Sì. Federico Beltrami e Claudio Nelli. Perché eravate in tre. Ma i quattro che si sono aggiunti, anche loro firmeranno, diciamo, il record? Firmeranno anche loro, anche perché comunque noi tre siamo quelli che l'abbiamo pensata, però... Avete voluto dare una chance anche a loro. In questo paese c'è una chance per tutti. Grazie, Cristian. Più che un nostro record, vorrei concludere che comunque è un record di ATM che è una delle eccellenze di Milano, quindi... Complimenti. Grazie mille. C'è da dire una cosa, che noi a Milano, noi che siamo qua di Milano, parliamo al resto d'Italia, ci lamentiamo spesso, sempre. Ho capito, ma tu vai a prendere un autobus in un'altra città la notte, non passano. Cioè, nelle è vero, è vero. Io prima volevo dire, non mi stavo lamentando. ATM effettivamente è un'eccellenza di Milano. È assolutamente adesso basta così. Perché sennò dicono che abbiamo fatto lo spot. Ma è vero, è vero. Forse era uno spot nelle intenzioni di chi ha fatto questa cosa. Sono venuto in motorino io comunque. C'è la certificazione del Guinness dei primati, quindi si può fare cronache da un paese migliore. Allora abbiamo Claire che ci chiama da Roma. Buongiorno Claire. Buongiorno con una bella R francese. Oh, che cos'hai contro la R? Anch'io ho la R, eh? Però non sei francese e quindi niente, quindi non vale. Sono francese. No, diceva a me che io ho la R ma non sono francese. C'ho la R moche e basta. Claire, come incluso, cosa voleva dire Claire? Allora, mi aggancio solo un attimo. Sì? Ai bus milanesi che conosco bene. Ai? E vi dico... Ai bus milanesi. Ma io sento il ritorno, come mai? Forse la radio accesa. Noi la sentiamo bene. Spenga la radio. Ho solo il cellulare col quale mi avete collegato voi. Allora, perché noi regaliamo un cellulare a chi chiamiamo, volevamo avvisare tutti gli altri ascoltatori. Magari. Ascolti, allora, sì? Per quanto riguarda i bus di Roma, siamo degli eroi che prendiamo i mezzi romani. poi per quanto mi fa la telefonata, io telefonavo perché sì. Volevo dire tre cose. Di Roma antifascista, veramente Roma è diventata antifascista molto dopo la guerra, uno. Poi volevo dire bravo alla Chiesa che rifiuta il suo funerale, e poi la mia proposta era: ma perché non mandarlo in Germania, nel suo paese natale, che in fondo lui è tedesco. Che no. Detto da una francese che abita a Roma è bello assai. Mi sembra che sia la storia del Novecento, detta da una francese a Roma che dice: questo tedesco perché non se ne può andare nel suo paese? Sembra quasi una barzelletta, c'era un tedesco, un francese. Esatto. Va bene. Grazie per il suggerimento. Ha non fatto è bene male, a chiamare per Pripke, che purtroppo non può rispondere lui. No, vabbè, ma la notizia però è curiosa, perché nessuno vuole dare sepoltura praticamente a Pripke. Sì, più che la Germania mi chiedo anche questa Argentina, che per 50 anni comunque se l'è tenuto, l'ha nascosto, l'ha protetto. Adesso non lo vuole. Siamo sicuri, perché secondo me poi... No, hanno iniziato gli argentini a dire che non lo vogliono. Qualcosa, credo. Gianluca da Forlì, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Lei su cosa vuole... Però Claire non ha risposto su Brain. Ricordiamo che dovete darci anche la definizione di creatività, se volete. È la più bella, la più giusta, vince due biglietti per la mostra Brain. Prego Gianluca, lei per cosa ha chiamato intanto? No, io... Semplicemente questo, io sono un elettore di centro-sinistra da sempre, però mi sono sempre chiesto come mai il popolo, usiamo questo termine qui, del centro-destra non ha mai detto niente sulla leadership di Berlusconi. Oddio, in 20 anni nessuno che si sia mai chiesto di dire: ok, dopo Berlusconi chi mettiamo? Cioè, se lo stanno chiedendo e come? Martellate. No, momento, adesso lo stanno chiedendo adesso perché ha una certa età. Noi sì, a sinistra ci siamo stati martellati nei Zebedei per 20 anni. Sì, c'è una piccola differenza, che Berlusconi sostanzialmente finanzia quel partito, e nel momento che sei colui che ci mette tutto il grano è difficile pensare che comandi qualcun altro. Sì, però non c'è mai stato nessuno che, per dire, ci ha provato forse Fini e abbiamo visto la fine che ha fatto. Sì. La Meloni e Crosetto si sono dovuti staccare. Vabbè, ma prima o poi Gianluca ci sarà un successore, non si preoccupi. È una questione di tempo. Che campi 200 sì? anni. Gianluca voleva dare anche una risposta sulla creatività, sulla definizione di creatività per vincere i biglietti? Oddio, assolutamente. A domenica mattina già faccio fatica a telefonare. Cioè, quindi lei ha pensi noi a rispondere. Lei ha fatto questo suo intervento così, senza neanche sapere quello che stava dicendo. Cioè, sta dormendo ancora. Complimenti, Gianluca. Vabbè. Più o meno. Può richiamarci fino alle 11 comunque. Ok, grazie. Arrivederci. Qua. Sentiamo, allora, proviamo con Alessandra da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire, noi prendiamo un sacco di tempo con questo gerarca nazista in Italia, in Argentina, ma... Dicevo, è tedesco, hai seguito fino all'ultimo gli ordini della Germania, e mi sembra tanto semplice, lo portiamo al confine e lo diamo alla Germania, che sarà orgogliosa. Cioè, non è un nostro cittadino, mi sembra ovvio, perché da noi o in Argentina. Poi volevo dire un'altra cosa, non è che l'Italia, Roma non lo vuole perché è antifascista, Roma non lo vuole perché un essere così non lo vuole, al di là di fascista o antifascista. Ma chi lo paga il funerale soprattutto? Io questa cosa non l'ho capita esattamente. I parenti lo pagheranno. Sì. Compriamo una bella, ma allora decideranno i parenti dove seppellirlo, no? No, noi non lo vogliamo, perché lo prenderà la Germania. Mi sembra talmente... Vabbè, però anche sta roba noi non lo vogliamo, non so. Però vogliamo. Con Cima comunque, no? No, vabbè. Sì, non ho questo... con Cima, ma neanche quello. Perché... Forse non si può parlare di salme però così, la domenica mattina. Ma che c'entra? Alessandra, stiamo perdendo un sacco di tempo. Però scusi, mi spieghi una cosa: perché è stato a Roma da vivo e non ci può stare da morto? Perché a Roma deve scontare una pena, ma per me, cioè, non lo vogliamo noi, e mi sembra giusto. Vabbè, questo abbiamo capito. Però mi dia almeno una definizione così, anche inventata, di creatività, così partecipa al sorteggio per vincere, no, al concorso per vincere i biglietti della mostra Brain. Alessandra, cos'è la creatività per lei? Così, in due parole. È un qualcosa che viene senza seguire la logica, niente. Un qualcosa che viene al momento e si segue, un'idea. Bello, senza seguire la logica. Alessandra Roma, grazie, cominciamo a segnarci. Tra l'altro si vince forse anche due biglietti per il funerale di Pripke, non è sicuro, ma... Gira voce, sempre con la risposta sulla creatività, giusto? Mi sto pentendo di avere Gabardini qua in studio. Comunque, vedete voi: 800-24-00-24. Finisce male con Pripke, che lo so già. Giornale Radio, torniamo tra pochissimo. Allora, intanto ci sono diversi sms sulla creatività, li voglio leggere anche se specifico. Non valgono. Non valgono, perché noi vogliamo le telefonate, per la definizione di creatività per vincere i biglietti Brain. Creatività è vedere nelle cose possibili trasformazioni che gli altri non vedono. Se il cervello è il forno, la creatività è il suo pane, scrive Paola da Milano. Oppure, vediamo ancora... la capacità di astrarre e poi concretizzare un pensiero, Gianluca, ma ce ne sono di belle, adesso piano piano. È bella anche creatività e ideare una trasmissione radiofonica che chieda agli ascoltatori di definire la creatività. E questa siamo noi. Allora, invece, la capacità di realizzare associazioni inedite, di accostare tra loro pensieri realtà non collegate, così da generare il nuovo. Oh, però avete sentito la colonna sonora, Smoke on the Water, perché vogliamo parlare di acqua, perché d'acqua sono 817 quest'anno le nuove case, anzi nel complesso le case dell'acqua, un vero boom questo, le fontane dell'acqua pubblica, per l'acqua pubblica realizzate in molti comuni italiani per l'erogazione di acqua di rete refrigerata o anche addirittura gassata. Nella classifica regionale c'è cioè la Lombardia che ne ha 382, poi ci sono l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Toscana, tutto il centro nord schierato. È quello che è emerso al Festival dell'Acqua qualche giorno fa all'Aquila. Noi abbiamo invece convocato, adesso non trovo, eccolo qua, un rappresentante, anzi l'assessore all'ambiente del comune di Forlì, Alberto Bellini, è l'ultima nata alla Casa dell'Acqua di Forlì. Buongiorno Bellini. Buongiorno. Buongiorno. Oh, intanto voi emiliani fate sempre le cose con un quid in più. Ho letto che c'è anche il display per vedere la qualità dell'acqua, cioè nel senso uno va a prendere l'acqua però vede anche com'è. Sì, noi abbiamo, grazie alla nostra società pubblica che si chiama Romagna Acque, una rete di case dell'acqua realizzata insieme al gestore del servizio che si chiama ERA, che ha un prodotto abbastanza accattivante, una vera e propria casina che contiene un display dove vengono visualizzati non solo i vantaggi economici e ambientali che poi magari ripetiamo, ma anche, credo sia una cosa molto importante, le analisi aggiornate con i dati chimici e chimico-fisici della qualità dell'acqua, un elemento fondamentale perché spesso i cittadini, lo dico da amministratore, scelgono di utilizzare l'acqua minerale perché temono che l'acqua di rete, l'acqua del sindaco cosiddetta, abbia delle caratteristiche peggiori in termini di sicurezza e di qualità. E invece non è così? Bravissimo, questo display dimostra che sia dal punto di vista chimico che chimico-fisico. Cioè, non è così da voi dove c'è il display, dove si può vedere esattamente, perché in altre parti non è che uno può garantire sulla parola, cioè ci vogliono le analisi per capire com'è l'acqua. Voi le fate, sono lì a disposizione, quindi diciamo questo è veramente un valore aggiunto. Come funziona questa casa dell'acqua? Poi spiegheremo anche i vantaggi. È molto semplice, certo. Diciamo c'è un distributore in cui si ha a disposizione, come dicevate, acqua naturale e acqua gasata addizionata di anidride carbonica. La prima, quella naturale, si può prelevare gratuitamente, semplicemente con una bottiglia, naturalmente non di plastica perché si perde il vantaggio ambientale, preferibilmente di vetro, e viceversa quella gasata ha un costo di 5 centesimi al litro. Se ne può prendere quanta ce ne pare? Diciamo normalmente c'è un limite di buon senso di 9 litri ad utente, per evitare in alcuni casi file anche importanti, quindi diciamo una specie di rispetto reciproco dei cittadini. Ok, quali sono però i vantaggi di questa cosa dell'acqua, della casa dell'acqua, l'acqua pubblica, insomma vantaggi ambientali, economici, evidente perché uno non la paga in questo caso l'acqua naturale. Non è solo quello, proviamo a spiegare alcuni elementi. Intanto penso noti, ma insomma qualche numero. In Italia si spendono 2,8 miliardi di euro complessivamente per i 5 miliardi di bottiglie di plastica che consumiamo. Noi, come è noto, siamo i primi consumatori al mondo di acqua minerale e quindi queste azioni sono soprattutto per dimostrare che invece l'acqua di rete, dove appunto è di qualità, da noi c'è la diga di Ridracoli, quindi insomma di qualità anche dal punto di vista organolettico, è importante da utilizzare in sostituzione dell'acqua minerale. I numeri sono molto semplici, considerando un consumo medio per una casa dell'acqua di 450.000 litri l'anno, 450.000 litri sono appunto gli utenti che continuamente ne usufruiscono, questo significa naturalmente 300.000 bottiglie di plastica in meno, considerando 1,5 litri tipico della bottiglia di PET, che si traduce in un risparmio di 25.000 litri di petrolio e di 50 tonnellate di anidride carbonica, di CO2 in meno che emettiamo in atmosfera, sia per la produzione del PET che per il trasporto. Ma l'altro dato poco visibile, poco conosciuto, che si risparmia anche nello smaltimento dei rifiuti, perché ci sono almeno 375 cassonetti in meno per lo smaltimento del PET, che comunque viene riciclato ma ha un costo e una gestione. Per dare un'idea, nell'intera Lombardia questo costo è di 25 milioni di euro l'anno. Quindi insomma, questa parte nascosta che è lo smaltimento è molto importante. E poi, come diceva naturalmente prima, le famiglie forlivesi in questo caso risparmiano 90.000 euro perché non spendono per l'acqua in bottiglia quei 40-50 centesimi medi al litro, ma hanno a disposizione l'acqua di rete. Voglio ricordare che l'acqua di rete costa 2 euro ogni 1000 litri. Sì. È gratis, però tanto comunque sia. È vero, visto che lei si è occupato, è assessore all'ambiente a Forlì, e insomma si è occupato di questa casa dell'acqua lì da voi, che l'Italia sì. ha il primato in Europa di bottiglie d'acqua acquistate nei negozi, cioè siamo quelli che comprano nel mondo. Forse, nel mondo, nel mondo. Come dicevo prima, sono 2,8 miliardi di euro e 5 miliardi di bottiglie di plastica. Per una media di 172 litri d'acqua minerale a testa, è il record mondiale. Quindi record forse ecco, questa cosa dell'acqua pubblica può dare un senso anche di riequilibrio, perché immagino che poi i produttori invece di acque minerali non saranno contentissimi di quello che state facendo, però poi, come diceva qualcuno, è il mercato bellezza. In questo caso nel mercato entrano anche operatori pubblici. La società che gestisce la casa dell'acqua lì a Forlì, cos'è, pubblico-privato, come funziona? Allora, noi abbiamo un sistema particolare, ma sì. che riteniamo valido, in cui la proprietà dell'acqua, delle fonti e delle reti di distribuzione è completamente pubblica, con una società che si chiama Romagna Acque, che è posseduta dai sì. 68 soci romagnoli. Invece ma la gestione sì. è di ERA, che è una società a maggioranza pubblica ma quotata in borsa. Quindi il 60% della proprietà di ERA è dei comuni dell'Emilia Romagna, sì. da Modena in giù, mentre il resto è quindi privato con capitale è davvero, in borsa. Possiamo davvero dire che è il mercato, insomma, che dà una risposta a un bisogno, quello dell'acqua, in modo diverso rispetto a quello dei produttori di acque minerali. Poi ognuno giudica, compra, acquista e si muove di conseguenza. Un nostro ascoltatore ci scrive chiedendo: ma se l'acqua è buona, non potrebbero berla direttamente dal rubinetto? Infatti certo. La domanda è perfetta, e lo scopo della casa dell'acqua è solo dimostrare che quella di rete è buona. Ah, certo. E, diciamo, è una civetta, è un che serve certo. a far capire che in realtà, provandola, verificandola direttamente con le analisi che venivano citate all'inizio giustamente, è forse addirittura migliore dal punto di vista chimico di certe acque minerali. Poi lì, quando vai a prendere quell'acqua lì, sai che esce quell'acqua lì analizzata certo. con quelle analisi chimiche lì, esatto. che potrebbe essere magari parzialmente diversa da quella che esce dal tuo rubinetto di casa, non molto probabilmente. E poi c'è anche l'acqua gassata. No, è chiaro. Però assessore, sì. Assessore, mi dica un'altra cosa prima di salutarci, perché io ho sentito qualche sera fa in una polemica in televisione tra Stefano Rodotà, che sosteneva questa cosa dell'acqua pubblica, c'è stato anche un referendum, c'è tutto un movimento, ci sono ricorsi pendenti in diverse regioni, e invece Porro, che sosteneva la questione della fiscalità, le tasse, perché questa cosa dell'acqua pubblica la pagano i cittadini con le tasse, e questo, dice, però è un problema. Sì, beh, io devo dire sto con Rodotà in generale, nel senso, credo che la sua posizione sia quella corretta, e la dico dal mio punto di vista. I beni comuni devono essere gestiti e messi a disposizione dai cittadini in modo equo e trasparente anche dal punto di vista economico. Mi spiego meglio, credo che sia corretto immaginare che ci sia un sistema di fiscalità che gestisca i beni pubblici attraverso la fiscalità generale. Viceversa, portarli con una gestione completamente a mercato rischia di portare a delle storture. Cioè, lei sostiene il fatto che, mi scusi se la interrompo, che è giusto che si paghino le tasse, con le queste siano dei servizi, e voi tra questi servizi ci mettete anche l'acqua, punto. Assolutamente, questa è la sua teoria, giusto? Assolutamente sì, viceversa si rischia che assessore, noi dobbiamo gestione... salutarci qua perché stiamo andando troppo lunghi, abbiamo la pausa per il traffico che incombe. Abbiamo raccontato comunque la Casa dell'Acqua di Forlì, l'ultima nata, almeno una delle ultime tra quelle più importanti. Grazie, a presto, ci risentiamo. 800 24 0024 traffico. Volevi dire una cosa? Volevo solamente dire una cosa che leggo dagli SMS, che in realtà io non intendevo minimamente prendere in giro la signora francese, anzi stavo prendendo in giro me con la mia R morsa, e quando lei invece aveva un R bellissimo in quanto francese. Infatti ci siamo salutati cordialmente con la signora, ci tenevo a precisarlo. Puntualizzazione e traffico. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo Luigi da Milano che ci chiama all'800 24 0024. Luigi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Prego, cosa vuoi dire? Io volevo dare la mia definizione di creatività. Sì? Ottimo. Che per me la creatività è autorizzarsi a compiere un viaggio nell'assurdo. Non ho capito, perché... scusi, autorizzarsi. Autorizzarsi a compiere un viaggio nell'assurdo. Sì. Specifichiamo giusto? Meglio? Prego? Specifichiamo un po' meglio cosa vuol dire. Beh, un viaggio nell'assurdo. Diciamo che la creatività ci deve aiutare ad allontanarci nella ricerca di soluzioni di un prodotto, di un processo, qualsiasi cosa, dalla banalità. E quindi... la negazione della banalità è talvolta l'idea folle, è talvolta... Ah, adesso ho capito meglio. Vedi, assurdo in quanto improbabile, in un viaggio nell'assurdo appunto in quanto diverso non immaginabile. Dalle cose già dette banali. Voleva intervenire anche sugli argomenti di trasmissione, Luigi, o no? Prego? Voleva intervenire anche sugli argomenti di trasmissione o no, o solo no, questo? No, volevo solamente dare questo... Perfetto, lei ha ufficialmente partecipato al concorso. Ottimo. Ce lo segniamo, poi vediamo fra una mezz'oretta, alla fine insomma. Uscirà il responso fra pochissimo. Sentiamone ancora, Anna dalla provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, volevo dare anch'io la definizione. Sì? Allora, secondo me la creatività è la capacità di concretizzare l'immaginazione. Con l'immaginazione immaginiamo cose che non esistono, dar corpo a realizzarle, e questa è creatività. Benissimo, molto cioè bene, si metterla in pratica e poi la realizza. Questa... realizzare l'immaginato. Anche lei voleva dire solo questo o c'aveva anche un intervento sulla trasmissione? Sì, non sono pronta. Sul... Va bene. Ma neanch'io sono pronto. Non riesco a immaginare. Grazie Anna. Grazie. Abbiamo ancora ascoltato. Buona mattina. No, abbiamo già l'assessore di Milano in linea? Sì. Ci abbiamo anche un ingresso musicale. Vai. Allora, abbiamo annunciato l'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, Pier Francesco Maiorino. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Perché qualche giorno fa Milano è stata, diciamo, la capitale del manifesto No Slot, cioè, spieghiamoci meglio, una serie di sindaci si sono trovati, di assessori, insomma, a firmare questa iniziativa che prevede una legge di iniziativa popolare, adesso si cominceranno a raccogliere le firme, per mettere dei paletti su questa questione delle slot machine. Ci sono diverse iniziative, manifestazioni in città, in varie città, Pavia, c'è stata una manifestazione, insomma, c'è un po' di... attenzione su questo tema, non è proibizionismo, ma è presa d'atto che c'è un problema. Questa è una premessa che faccio io, ma che poi l'assessore farà naturalmente meglio di noi. Però intanto ci dica cos'è avvenuto qualche giorno fa a Milano con questa simbolica firma di un sacco di amministratori locali. Ma diciamo che tre giorni fa, nella sala del Comune di Milano abbiamo chiamata raccolta centinaia di amministratori e di amministrazioni, sindaci, assessori, eccetera, proprio per dare in maniera ancora più visibile rispetto a quanto fatto già nei mesi scorsi, vita a una sorta, proprio io vorrei chiamare, di movimento, di città, contro i pericoli del gioco d'azzardo, per riuscire a contrastare per quanto si riesce e si può non tanto l'idea di gioco e divertimento, come giustamente lei diceva, quanto proprio il gioco d'azzardo patologico, il fatto che questa poi diventa una spirale da cui è difficile uscire. Ecco, ma diciamo anche questo, ci sono già quattro regioni, per esempio, che hanno una legge, sono la Toscana, qualche giorno fa l'ha appena votata, la Liguria, l'Emilia-Romagna e il Lazio. Il Consiglio regionale Lombardo dovrebbe licenziare una legge in settimana, le risulta anche a lei, assessore? Sì, è in discussione una legge in settimana, ci auguriamo che non sia svuotata rispetto agli intendimenti iniziali. Io leggo dall'ultima legge approvata, quella in Toscana, sarà vietato aprire le sale da gioco nel raggio di 500 metri, sono tanti, più di quelli che aveva proposto per esempio il governo Monti, da scuole, luoghi di culto, centri giovanili e sportivi, questa è la cosa più forte, poi ce ne sono altre. Che cosa prevede invece la legge, diciamo, di iniziativa popolare, proprio i paletti che voi proponete, diciamo, no? Perché adesso partirà un iter per una raccolta firme, ci sarà questa appunto proposta di legge prevista dall'ordinamento, che poi vedremo che fine farà in Parlamento, però intanto c'è l'imprimatur forte di tutti questi amministratori locali. Cosa prevede la legge, assessore? Ma la nostra proposta prevede varie limitazioni, diciamo innanzitutto più potere alle città, ai sindaci, di poter scegliere realmente, di poter intervenire realmente fotografando quelle che sono le situazioni reali in relazione a cui si possono sviluppare attività simili o dove invece non si possono sviluppare, e si va verso limitazioni simili a quelle immaginate dalla regione Toscana ad altre riguardanti il numero di licenze possibili, e in più si prevedono strumenti poi per sostenere le vittime, quindi per recuperare socialmente chi è vittima di questa, che è una malattia che non è considerata tale perché non è considerata praticamente neanche spesso una dipendenza, perché è molto accettata socialmente, sì. Faceva molto più paura l'eroina negli anni 80, quindi diciamo siamo di fronte a qualcosa che è molto più diffuso, diffondibile e molto più persuasivo da un certo punto di vista, e proprio per questo è anche molto molto pericoloso. Ecco, questo concetto, mi scusi se mi intrometto, assessore, sì. Mi sembra importante, lo voglio sottolineare anch'io, perché in effetti è questa, come dire, questa pervasività che è inquietante, perché sale gioco che nascono ovunque, ormai basta guardarsi in ogni quartiere delle città, ce ne sono più d'una. In tutti i bar, negli angoli oscuri, poi si parla di gioco, ma di divertente c'è poco. Ci sono questi video poker che spopolano. Lei, per esempio, personalmente, ma anche in quanto rappresentante di questo movimento, preferirebbe la soluzione dei casinò, cioè come era un tempo, magari farne degli altri, cioè zone concentrate dove uno va a giocare, anziché averceli sparsi da tutte le parti dove la tentazione forse è maggiore. Ma io, guardi, se posso ragionare in termini proprio astratti, direi che se stabilissimo un numero massimo nelle città, poi dopo quel punto tutto verrebbe di conseguenza, nel senso che oggi è stata proprio, fino ad ora si è verificata questa proliferazione selvaggia, come dice lei, sia di luoghi, quindi diciamo del locale totalmente adibito, sia della macchinetta dentro al bar. Poi c'è un altro tema enorme che dovremo, io credo, affrontare tutti presto, che è quello della diffusione via internet, che è un'altra questione, che tra l'altro colpisce in questo caso più la popolazione giovanile, mentre invece è più la popolazione anziana quella. Ma infatti il problema nel momento che c'è internet mi sembra un po', cioè il fatto di dire non apriamo sale giochi a 500 metri dalle scuole, quando uno dalla propria cameretta gioca a Hong Kong, mi sembra un po', diciamo. Beh, diciamo, io credo che si debba avere in questi casi la razionalità di intervenire da dove si può, certo, sapendo certo. Poi ovviamente che il problema c'è sempre anche altrove, quindi non è che abbiamo la bacchetta magica. E vorrei che fosse chiaro un concetto, le regioni si stanno muovendo, i sindaci stanno chiedendo poteri, poiché i comuni oggi, al contrario magari di quanto pensano molti cittadini, non hanno minimamente strumenti per intervenire. Perché è tutto nazionale, in questo senso? Perché è tutto nazionale, e mi chiedo, infatti il punto è che noi facciamo benissimo, io credo, a fare questa mobilitazione. Certo. Le regioni stanno intervenendo, ma forse dovrebbe intervenire innanzitutto il Parlamento, che mi pare invece molto bloccato è su questo terreno, o almeno in passato lo è stato, proprio da una logica di interessi, perché è inutile girarci attorno. Ecco, un diamo un'occhiata anche a questo. Cioè, dove vanno i soldi? Il comune non prende soldi alle macchinette o ne prende? No, il comune non ne prende, ma il punto è che non ne deve prendere nemmeno lo Stato, io credo, nel senso che il tema oggi è che lo Stato prende un sacco di soldi dal gioco d'azzardo. Beh, meglio lo Stato che qualcun altro, forse, o no? Di questo dovremmo discutere seriamente, cioè il punto è che lo Stato deve prenderli laddove l'attività è trasparente, sì, certo, contenuta. Dobbiamo evitare, era quello che cercavo di dire con una battuta evidentemente un po' troppo banale, dobbiamo evitare che il fatto che lo Stato prenda dei soldi dal gioco d'azzardo impedisca adesso di intervenire per limitarne la diffusione. Certo. Lei dice evitiamo questo cortocircuito, per cui siccome è diventata una fonte di introito fiscale... Fino ad oggi lo dico proprio da osservatore, non è che sto in Parlamento, l'impressione che ho però, è che c'è stata proprio una lobby forte che ha impedito ogni scelta. Mi faccia fare una domanda su questa lobby, perché abbiamo chiarito il ruolo dello Stato, che è un po' in conflitto di interessi, perché prende i soldi da una parte e poi dall'altro gli si chiede di intervenire contro, e questo è chiaro, dipenderà poi anche dalla classe politica. Ma invece i concessionari, cioè chi è il vero nemico in questo momento? Perché chi sono i concessionari? Cioè sono una lobby veramente forte? Si può trattare secondo voi, oppure ce li avete contro? Ma tra i concessionari c'è ovviamente di tutto, come sempre in questi casi, poi insomma l'Italia in questo non fa mai eccezione, quindi c'è sempre ci sono figure, se io credo, pronte a un dialogo, a far sì che la trasparenza del sistema sia quella che vince, e anche interessi molto negativi, perché poi il sistema del gioco d'azzardo è anche un meccanismo a volte che sfocia completamente nell'illegalità, oppure pure nella capacità di riciclare denaro, cioè stiamo parlando anche evidentemente di questo, non stiamo parlando solo di un sistema trasparente da limitare. Sinceramente non credo che dobbiamo aspettarci da loro atti unilaterali particolarmente positivi, lo dico in modo molto semplice, nel senso che oggi c'è un tema di diffusione molto forte, migliaia di macchinette in città come quella di Milano, decine e decine di luoghi nelle grandi città dove questa pratica può verificarsi, e quindi devono essere le istituzioni a intervenire ponendo dei limiti forti. Poi bisogna riuscire a evitare di dare un messaggio, come dire, neoproibizionista, lo dicevate. Va bene, questo l'abbiamo già detto, però assessore, una cosa, ci dica dove si può firmare e qual è l'obiettivo di firme? Ma guardate, noi vogliamo arrivare al numero massimo possibile di firme, quindi non ci poniamo questo limite. Su comune.milano.it ci sono tutte le informazioni, e perfetto, peraltro non casualmente nella città di Milano, durante il Festival dei beni confiscati alla mafia, che sono tre giornate nelle quali apriamo la città i beni confiscati alle mafie che utilizziamo socialmente, raccoglieremo le firme, quindi quella sarà un'ulteriore occasione. Benissimo, ottimo, grazie assessore. Questa grazie era l'iniziativa, il manifesto uno slot, la legge di iniziativa popolare promossa dai comuni italiani, si può firmare comune.milano.it, ma in tutte le città che hanno aderito, insomma, basta andare a guardare online. 800 24 00 24, tra poco riprendiamo con la creatività, ma anche con gli interventi degli ascoltatori. Assolutamente sì. Allora, un paio di sms intanto sulla questione dell'acqua. Dice: anche nel Lazio abbiamo queste fontanelle da tempo, ci scrivono, e infatti anche in Lazio ce ne sono, sì, abbiamo detto Toscana, Liguria, Emilia, Lombardia c'è il record di queste case dell'acqua, ne abbiamo parlato di quella di Forlì. Poi un ascoltatore, Marco, ci scrive: ma l'amianto nelle tubature è un falso o è vero? Noi non l'abbiamo chiesto all'assessore di Forlì, però lui, per quanto riguarda loro, ha specificato chiaramente che loro fanno le analisi e tu le puoi vedere in tempo reale sul display quando vai a prendere l'acqua, e lì lo capisci se l'acqua è buona oppure no. Chiaramente questo. E più avanti poi c'è qualcuno invece che parla di arsenico dentro nell'acqua, quindi sempre con questa preoccupazione. Poi probabilmente ci sono veleni con tutte le lettere. Diciamo, domani facciamo quelli di esatto. Gaetano da Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo dare la sì? La definizione di creatività. Bene. Qual è? Siamo tutto orecchi. La creatività è spazio al tempo. Questo è un gioco di parole, però, Gaetano, che vuol dire spazio al tempo? Cioè, nel senso, perché allora prendiamoci creativo, il tempo necessario. No, chi è creativo riesce a dare al suo tempo uno spazio. Va bene. Questa è la sua definizione. Voleva dire qualcosa anche sul programma, o cioè sui temi di attualità, o solo la creatività? Il tema di attualità, volevo parlare di PRIB, che nel senso che per me è fondamentale dare la condanna della damnatio memoriae. D'ora in poi non se ne deve parlare più. Va bene, e questa è una proposta. Questa è una proposta. Però troviamogli un posto dove seppellirlo, perché sennò bisogna continuare a parlarne. Perché... E poi è pericoloso non parlarne più, si rischia che dopo, diciamo, si falsifica la storia, uno non ne parla più, non sa più se è vivo, se veramente ne ha uccisi 325, se erano 330, cosa è successo alle fosse ardeatine e così via. Però anche il fatto che non se ne parli più potrebbe essere una dannazione. Sì, come sì, è giusto. Infatti è una bella proposta. Grazie Gaetano. Luigi da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei su cosa voleva intervenire? Prego. Pronto? Pronto? Prego, la Luigi. Sentiamo benissimo. Tocca a lei. Allora, volevo dire questo, che ai Castelli Romani noi non possiamo utilizzare l'acqua cosiddetta potabile perché è piena di arsenico. Poi che cosa fanno questi signori? Che i valori delle analisi li modificano ad arte, cioè praticamente dicono va bene, prima l'arsenico era un valore, non so, 10, adesso diciamo 10 diventa potabile. Questo dove accade, mi scusi Luigi, Castelli Romani, questo ci hanno mandato anche degli sms parlando della questione dell'arsenico, quindi... Ma da dove? Sempre dai Castelli Romani? Questo non te lo so dire, perché l'SMS non è fermato. Tutta la zona che c'ha questo problema, capisce? E quindi noi siamo costretti non solo a utilizzare l'acqua per bere dalle bottiglie, ma utilizzare anche l'acqua per cuocere la pasta, perché non ci fidiamo. Vabbè Luigi, è una situazione particolare che non va bene. Noi abbiamo parlato invece di una situazione che va bene, quella di Forlì, e naturalmente ci sono anche cose da risolvere. Non è che dovete richiedere, diciamo, la costruzione di una casa dell'acqua ai Castelli Romani. Questo è raccogliere le firme, farlo. Bisogna ripulire l'acqua, perché sennò è inutile fare casa dell'acqua. Dovete chiedere all'azienda che lavora a Forlì di venire a lavorare anche da voi, così magari risolve un po' i problemi. Luigi, voleva dare anche la definizione di creatività per partecipare al concorso sulla mostra Brain? Dare concretezza ad un'idea soltanto pensata, ecco, va bene? Dare concretezza ad un'idea, benissimo, grazie Luigi. Saluto, buongiorno. Allora, io intanto ho cominciato a segnarmele, io ho già espresso un mio preferito, adesso siamo a 5-6 telefonate, adesso ne sentiremo delle altre, anche in redazione, anche tu Gabardini devi esprimere, poi diciamo quali sono i vincitori, diciamo dopo. Adesso torniamo a parlare di cultura, o di cultura, come si dice in termini più elevati, continuiamo il nostro viaggio nelle città italiane medio-piccole, candidate a Capitale Europea della Cultura. Bello, bellissimo. 2019, una data lontana, però proprio in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, si gioca tutto, cioè dalla long list, dalla lista lunga, si arriverà a una short list e quindi si capirà quali sono le città che concorrono. Salutiamo Bruno Bracalente, che è presidente della Fondazione Perugia Assisi 2019, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Perché oggi tocca a Perugia, io riepilogo, abbiamo parlato di Bergamo, sennò poi dice che ci occupiamo solo di quello e non di quell'altro. Bergamo, Ravenna, Pesaro... Palermo direi domenica la settimana scorsa. Adesso siamo a Perugia Assisi. Già qua uno dice si capisce perché Perugia Assisi, la città di San Francesco. Già questo intanto è una coppia di città, giusto? No, è una città con i luoghi di la città è Perugia con i luoghi di Francesco d'Assisi e dell'Umbria, quindi avete è sfruttato però è bella questa cosa di unire, diciamo, Perugia Assisi anche con, diciamo, con un'unica A, giusto? Sì. Questo noi abbiamo iniziato un percorso insieme, Perugia ed Assisi, e poi abbiamo definito però la candidatura come su tre livelli territoriali, che è Perugia, che è il centro della candidatura, che è il capoluogo di regione, e poi c'è una dimensione territoriale intermedia, che sono i luoghi di Francesco di Assisi, e Assisi in particolare, e poi l'Umbria intera. Lei pensa che qualcuno, mettiamo che vinciate voi, qualcuno che viene, che ne so, da Dublino, pensa di andare in una città che si chiama Perugia Assisi? Perché magari non conosce Perugia. Beh, è più probabile che conosca Assisi, in effetti. Sì. San Francesco da Perugia Assisi. Ma noi vogliamo fare in modo proprio che con questa candidatura anche Perugia recuperi una sua forte visibilità europea. Senta, tra l'altro è una visibilità e anche, diciamo, un'immagine che in qualche modo nei tempi passati ha avuto qualche colpo, e quindi abbiamo proprio bisogno di ricostruire. Lei si riferisce a tutti i casi di cronaca nera che hanno girato anche il mondo. Sì, esattamente, anche a questo. Però ci conoscono bene negli Stati Uniti, diciamo. Dalle parti di, non so di dove era lei, la Amanda Knox. Parti della Knox. Vabbè, sperate in un recupero d'immagine, però ci dica anche poi concretamente invece che cosa vi aspettate, perché su questi grandi eventi c'è sempre una discussione, perché si, a volte si investe di più per prepararsi che poi di quello che effettivamente si incassa in termini poi di turismo e di cose, perché questa è una polemica vecchia, vecchia quanto il mondo. Tra l'altro, qual è lo snodo? Quando si decide la shortlist? Si deciderà nei prossimi mesi, noi pensiamo entro la fine dell'anno, al massimo all'inizio di gennaio. Va perché bene. Poi ci dovranno dare alle città che verranno selezionate, appunto quelle che faranno parte della shortlist, altri mesi per approfondire il progetto. Ecco. E tutto dovrà essere concluso entro la fine del 2014. Ecco, ma voi state spendendo quanto per fare questa candidatura e vi aspettate che cosa poi dopo? Ma noi stiamo spendendo molto intanto in termini di sforzo progettuale, con investimenti anche economici abbastanza significativi, perché c'è una città intera e un'intera regione che ci crede davvero e che ha bisogno di questa candidatura, perché noi la consideriamo un'occasione per anche per rispondere alla crisi della città, ma anche non soltanto di Perugia, ma la nostra è un po' la candidatura di una città media che attraverso appunto la capitale europea della cultura vuole un po' rispondere alla crisi delle città medie in generale, anche quelle altre italiane, anche europee, che sono schiacciate dalla concorrenza sempre più forte delle grandi metropoli globali che concentrano lì tutte le attività dei servizi avanzati, dell'economia, della cultura. Quindi insomma le città medie sono in difficoltà e rischiano di essere sempre più in difficoltà. È un bello spot, se vogliamo, per le città medie, che vale anche per molte altre città candidate capitale della cultura nel 2019, vale anche per molte altre. Per quasi tutte, perché sono quasi tutte piccole, a parte forse Palermo, però in 30 secondi, se lei dovesse fare proprio il momento Perugia-Assisi, perché? Beh, perché noi appunto proponiamo intanto una visione originale di città media, che è, diciamo, pure una risposta alla deriva delle città medie e dei centri storici. La nostra è una candidatura fondata molto sulla rigenerazione del centro storico. Altre città che sono state capitale europea della cultura hanno approfittato di questa occasione per trasformare aree industriali in aree della cultura. Noi dobbiamo trasformare un centro storico che soffre in un centro di insediamento di attività culturali e creative, quindi rigenerarlo come luogo, luogo di vita, come luogo di produzione. Però, tra l'altro, ecco il nostro slogan, no, devo approfittare per dire il nostro slogan, che è appunto fabbricare luoghi, che è un po' in alternativa ai non luoghi delle città moderne ed è anche in alternativa a un'idea di centro storico, che è come una sorta di museo all'aperto in attesa di turisti della cultura. Però diciamo la verità, che voi sfruttate soprattutto il marketing di Papa Francesco, perché questa è la grossa cosa, San Francesco Noi adesso non è questione solo di marketing, ma certo noi presentiamo anche dei valori che sono quelli della cultura francescana e della spiritualità francescana e della cultura dell'accoglienza umbra e della cultura del dialogo, perché queste sono le nostre tre parole d'ordine. Va bene, va bene. Noi ci fermiamo qua, grazie, no, perché dato spazio, poi daremo anche alle altre città. Grazie a Bruno Bracalente, che è il presidente della Fondazione Perugia Assisi. Abbiamo Dario che ci chiama da Roma. Buongiorno Dario. La creatività, a parer mio, è svincolarsi dalle regole del proprio tempo e attuare nuovi modelli nelle arti figurative, nella scrittura, nelle altre materie tipo filosofia, tipo scienza, è un progredire verso nuove concezioni. Questa è la creatività, a parer mio. Ma lei sta leggendo o recitando proprio di suo? No, spontaneamente. Ha preso un tempo d'ingresso incredibile, se lo dice Gabardini. Assolutamente, complimenti. Dario, voleva dire anche qualcosa sul programma o solo la creatività? Sulla creatività e poi sul caso di attualità. Sì, cosa? Sul caso Pipke. Cosa? Che praticamente non, la Chiesa non rispecchia, almeno la Chiesa romana non rispecchia il Vangelo, in quanto si parla di perdonare 77 volte 7, almeno nell'ambito della morte si dovrebbe avere un atteggiamento di perdono, al limite attuando un altro luogo, decidendo un altro luogo che non sia Roma per la sua fortuna. Sì, beh, però la Chiesa, diciamo, spesse volte ha rifiutato i funerali ai suicidi, ora rifiutarlo a un ragazzo che ha deciso di buttarsi alla finestra e invece accettare quello di un uomo che è condannato per la morte di 325 persone. Però chissà se, diverso, grazie, Dario, ecco. Chissà se invece con la Chiesa, con il papato di Ratzinger, se ci sarebbe stata la stessa decisione della Chiesa di Roma oppure no. Questa è una domanda che potremmo anche porci, no, ma non solo per il fatto che è tedesco, ma per una serie di questioni che io non so assolutamente. È una domanda. 800 24 00 24. Tra un attimo torniamo dopo il traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Adesso vi vogliamo parlare di una bella storia, e è questa: una squadra di calcio fatta di rifugiati stranieri che stanno in Italia, ma che adesso ha avuto la possibilità di iscriversi al campionato di calcio di terza categoria, perché ha avuto, credo di aver capito bene, una deroga particolare da parte della FIGC. Noi salutiamo il presidente di Afro Napoli United, che è Antonio Gargiulo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Intanto, vabbè, complimenti per l'iniziativa, una squadra, insomma, di calcio, di rifugiati, di stranieri, per dare un messaggio, no? Lo sport che supera la società e la politica su queste questioni qua. Sì. Da quanto tempo siete insieme? Allora, la squadra nasce nel 2009, con lo scopo principale di realizzare delle concrete opportunità di integrazione e di socializzazione di migranti che vivono nella nostra città. In questo senso lo sport, il calcio, che sì, è un po' popolare del mondo, è un ottimo strumento, molto efficace per diffondere i nostri principi e i nostri valori. Ecco, però avete cominciato così un po' per scherzo, adesso però vi iscrivete al campionato di terza categoria? Sì, sì, finalmente ci iscriviamo, però non in virtù di una deroga, nel senso che nello scorso mese di giugno sono state modificate alcune norme. Scusi, ho detto male io, non è una deroga, ma è proprio cambiato il regolamento. Alcune norme. Ma per voi l'hanno fatta questa cosa? No, assolutamente no. Che norme sono? Che norme che hanno cambiato? Che norme sono? Nel senso che per giocare in FIGC non basta solo un regolare permesso di soggiorno, ma prima richiedevano anche una lunga durata del permesso e una residenza storica di un anno in Italia. Invece adesso? Hanno accorciato la durata del permesso, sì? E hanno eliminato la richiesta di una durata di un anno del certificato di residenza, quindi basta semplicemente un certificato di residenza. No, non ho capito, nel senso che loro, cioè tutti i calciatori devono avere il permesso di soggiorno e un certificato di residenza, è così? Esatto, mentre prima richiedevano che la residenza doveva essere storica di un anno. Quindi voi, per come siete messi voi, adesso riusciamo, potete giocare. Esatto. Ma diciamo, perché non è del tutto semplice, perché stiamo facendo una corsa a ostacoli, perché poi ci sono problemi di rinnovo di permesso, il comune non ci dà la residenza se il permesso non è rinnovato, poi tutta la documentazione va spedita a Roma e la decisione sul tesseramento è della FIGC di Roma. Neanche. Ma anche perché magari tutto fatto apposta, voi avete un giocatore senza permesso che è fortissimo e quelli del comune non lo accettano perché sperano di vincere la partita, giusto? Però è il comune di Napoli. Quando ci sono i derby è un disastro. Però il comune di Napoli non milita in terza categoria, ti avviso. Non il Napoli, ma altri, magari non so, il Caivano piuttosto. Però, che. Scusi, Gargiulo, l'Afro United, l'Afro Napoli United. United, un nome bellissimo. Per cosa si contraddistingue? Cioè, chi è che può giocare da voi? Solo chi? No, noi siamo aperti a tutti. Chiunque. Nel senso che per noi c'è un trattamento paritario tra migranti e napoletani. Ovviamente. Quindi proprio un vero e proprio luogo di incontro nello sport, sì, nel calcio. Vengono tanti ragazzi da. Però avete dei rifugiati, ne avete diversi? Sì, ci sono anche rifugiati politici che sono stati anche a Lampedusa, nei centri di accoglienza. La maggior parte viene dall'Africa, però abbiamo anche ragazzi che vengono dal Sud America o dall'Europa dell'Est, poi ci sono pure i napoletani. Ah, quindi non solo africani, cioè afro è nel nome ma non è un requisito, diciamo. Se arriva uno svedese lo prendete? Sì. Il famoso rifugiato svedese. Vabbè, insomma, comunque noi ci fermiamo qua, dobbiamo chiudere. Ringraziamo complimenti Gargiulo per questa iniziativa Afro Napoli United. Sono gente bravissima che va in fuga sulla fascia tantissimo, dicono. Potremmo anche fermarci qua con questa chiosa. Invece no, dobbiamo chiudere sul concorso di oggi. Ah certo, giusto. La mostra Brain, vincono i biglietti per la mostra, 2 biglietti ciascuno. Alessandra da Roma, per cui la creatività è non seguire le vie logiche ma l'istinto. Anna da Monza, che dice è la concretizzazione dell'immaginazione. E tu perché hai votato? Anna, ho votato anche io. Anche tu per Anna. E allora aggiungiamo anche... A parte che il voto è segreto in questo momento, è, diciamo, sta andando in onda... un fulcino, perché ne manca uno e a questo punto, a mio giudizio insindacabile, è mettiamo Luigi da Roma, che è concretizzare un'idea. Assolutamente, cioè, sì, la concretizziamo e speriamo che non scoprano che è Luigi Maurizio, ovviamente. Salutiamo il cugino di Alessio. Dobbiamo chiudere, ci sentiamo sabato prossimo. A sabato prossimo. Ciao, sono Mary da Reggio Emilia. Viaggiando con bambini ho constatato l'importanza di dedicare loro dei momenti di gioco durante il viaggio, ed ecco che il parco giochi dietro l'angolo si presenta come un'ottima soluzione. Il mio blog playgroundaroundthecorner.com, appunto parco giochi dietro l'angolo, vuole fornire informazioni sui parchi giochi in Italia e soprattutto fare luce su queste aree che nel nostro paese sono troppo spesso anonime, trascurate, poco stimolanti e tutte uguali da nord a sud. Infatti vorrei creare anche in Italia quella cultura del parco giochi che esiste all'estero, per far sì che i nostri parchi giochi diventino accattivanti agli occhi dei bambini che qua dovrebbero desiderare di giocare. Investire sul parco giochi significa quindi investire sul futuro del paese ed è anche sicuramente un modo per trasmettere al mondo un'immagine d'Italia migliore. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì!